Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sarebbero stati inizialmente localizzati nel nord della Francia e poi visti tornare verso Parigi due sospetti terroristi che hanno colpito ieri in città. Un minuto di silenzio intanto in ricordo delle 12 vittime dell'assalto al settimanale Charlie Hebdo. Sale però intanto la tensione, nel giro di poche ore tre attacchi contro luoghi di culto musulmani in Francia, tre bombe contro la moschea di Mans, nessun ferito. Si alza il livello di sicurezza anche in Italia, è impossibile escludere attentati anche da noi, dice il ministro Alfano. Nel prossimo Consiglio dei Ministri nuove norme contro i cosiddetti foreign fighters, italiani che sono andati a combattere con ISIS. Crollano l'intonaca e una parte della soletta dal soffitto di una scuola elementare nel Milanese. Ci sono sei bambini feriti, per fortuna lievemente. 22 arresti e 40 perquisizioni a Roma per corruzione e concussione, coinvolti funzionari delle ASL, imprenditori e professionisti. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, come sempre, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. E anche oggi una ampia parte della nostra puntata naturalmente sarà dedicata a quello che è successo ieri a Parigi, dove, ve lo ricordiamo naturalmente, due persone, forse tre, sono entrate nella sede del settimanale satirico francese Charlie Hebdo e hanno sparato con dei Kalashnikov uccidendo 13 persone. Dunque iniziamo dalla cronaca di queste ore, iniziamo dalla ricerca dei terroristi. Ieri era arrivata la notizia, poi rivelatasi falsa, di un blitz in corso in un'altra zona della Francia. Questa mattina nuove indicazioni, indiscrezioni e notizie che si accavallano. Cerchiamo di fare chiarezza con la nostra Laura Bettini. Laura, eccoci, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Davvero è difficile fare chiarezza e trovare, dipanare, diciamo, quello che sta accadendo nelle ultime ore. Partiamo dalle ultime notizie che arrivano da Parigi, dove il quartiere dell'Eliseo, quello in cui si trova la presidenza della Repubblica Francese, è stato blindato. Dopo la localizzazione in Piccardia, quindi stiamo parlando di qualche decina di chilometri da Parigi, dell'auto con i due terroristi autori della strage di ieri a Charlie Hebdo. Perché è stato blindato il quartiere dell'Eliseo? Perché quest'auto sta viaggiando di nuovo verso Parigi. I due fratelli franco-algerini Said e Sherif Kouachi sono stati denunciati dal gestore di un distributore di benzina che hanno rapinato. Quest'uomo ha raccontato che i due erano incappucciati, che a bordo della Clio bianca, quindi la stessa auto rubata ieri per la fuga, c'erano Kalashnikov e addirittura lanciarazzi. Gran dispiegamento di polizia nell'area. Intanto a Reims, che tu nominavi prima, restano in stato di fermo cinque persone che sono collegate all'inchiesta, tra cui la sorella dei due ricercati, suo marito e la moglie di uno di loro. Poi altri fermi sono stati effettuati in altre città. E c'è poi la questione del terzo appartenente a questo gruppo di assalitori. È questo ragazzo il cui nome è Hamid Murad, 19enne. Ebbene, questo ragazzo si è costituito nella notte a Charleville-Mézières, ma si è consegnato, dice, perché ha visto il suo nome circolare come presunto assalitore, mentre invece, dice lui, ero a scuola al momento della strage di Parigi. Il suo alibi ovviamente è al vaglio, ma sembra che sia piuttosto solido, quindi potrebbe esserci una omonimia tra l'autista degli assalitori e lo studente di Charleville-Mézières. Senti Laura, stamattina è stata una mattinata piuttosto confusa, poi tra un attimo ci collegheremo anche con Marco Mussanè, che in realtà è già in linea con noi, che è il corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. È stata una mattinata piuttosto confusa perché c'è stata una sparatoria a Parigi. C'è stata una sparatoria che ovviamente lì per lì tutti quanti abbiamo ricollegato agli avvenimenti di ieri, poi è sembrato di no, poi forse ancora sì. Insomma, la dinamica dovrebbe essere stata questa: la polizia è intervenuta su un incidente. Quando la pattuglia è giunta sul posto, qualcuno che nulla aveva a che vedere con quello scontro, con quell'incidente autostradale, ha aperto il fuoco con armi pesanti, ha ferito una poliziotta che poi è deceduta poco dopo, ha ferito anche un altro agente, è stata arrestata una persona, ma ha specificato il ministro dell'interno francese, questa persona arrestata non è colui che ha sparato, questa persona invece che ha sparato è fuggita, e ancora una volta si parla di una Clio bianca. bianca, quindi è fuggito su una Clio bianca che ha posteggiato vicino alla metropolitana. Sono arrivati ovviamente gli artificieri, si è pensato quindi di chiudere il cerchio con gli eventi di ieri, e invece poi dopo i due sono stati individuati ben più lontani da Parigi. Allora Laura, ti fermo un attimo e resta con noi. Come dicevo, abbiamo Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, in linea con noi. Marco, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a voi. Io vorrei chiederti, naturalmente, in questo quadro, nel quadro di questi terroristi che sarebbero di nuovo diretti verso la capitale francese, qual è il clima a Parigi? E l'altra cosa che vorrei chiederti è se ci sono novità ulteriori rispetto alla sparatoria di questa mattina. Ma il clima a Parigi è incerto, tra una grande commozione, quella che si è vista stamattina, poco più di un'ora fa, a mezzogiorno, quando è stato osservato un minuto di silenzio in alcuni luoghi della città, con la sfilata di gente davanti alla sede di Charlie Hebdo per lasciare un fiore, un pensiero, un messaggio e per un attimo di raccoglimento. E l'altro sentimento è quello però della paura, d'un lato perché l'attacco di questa mattina, la sparatoria di questa mattina a Montrouge, nella periferia sud della città, dove è morta una poliziotta, ha immediatamente rialzato il livello di tensione in città e fatto temere nuovi attentati. E dall'altro perché le immagini che sta mandando la televisione in diretta sono immagini di guerra. Alcune delle porte di accesso alla città, nella zona est, in particolare la porta della Villette e la porta del Pantin, sono presidiate dalle teste di cuoio della polizia in assetto appunto di guerra, in attesa apparentemente che arrivi dall'autostrada dell'est questa Clio con i due killer a bordo. Quindi la città è con il fiato sospeso, commossa e impaurita, pronto ovviamente alla mobilitazione che ci sarà di nuovo questo pomeriggio alle 6, come ieri, spontanea, si prepara la manifestazione invece più istituzionale di domenica pomeriggio. Allora, anche a te Marco, chiedo ancora un attimo di restare con noi, perché poi vorrei tornare da te per capire come sta reagendo la politica francese, e torniamo invece alla nostra Laura Bettini per parlare di quello che sta succedendo e che rischia di succedere nel resto della Francia, perché ci sono stati attacchi questa mattina contro luoghi di culto musulmani. Sì, ci sono state nelle ultime ore diverse azioni violente contro luoghi di culto musulmani in varie parti della Francia, quindi non solo nella zona di Parigi, anzi, tre granate sono state lanciate contro la moschea di Le Mans, un'altra esplosione dolosa ha interessato un rivenditore di kebab nei pressi della moschea di Villefranche-sur-Saône, e spari hanno raggiunto una sala di preghiera a Port-la-Nouvelle. Qui siamo addirittura sulle sponde del Mediterraneo. Non ci sono stati feriti, ma direi che questo è indicativo del clima e di quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Grazie dunque alla nostra Laura Bettini per questi aggiornamenti. E prima di tornare da Marco Mussanè per capire quale può essere la reazione della politica a questo punto e qual è stata la reazione della politica, tra l'altro oggi il presidente francese ha ricevuto all'Eliseo il suo predecessore Sarkozy, e da questo punto di vista è interessante capire che cosa succede. Vogliamo collegarci anche con Chiara Zappalà, che è una collega che anche ci ha supportato ieri nel racconto di questa difficile giornata, che si trova all'interno della sede di Charlie Hebdo, ho capito bene Chiara, o là davanti? No. Non sono dentro la sede, sono davanti alla sede, fin dove si può arrivare. Qui, malgrado gli attacchi e malgrado il clima di tensione, molte persone si sono raccolte, hanno lasciato un fiore, una matita, delle magliette con delle scritte: Charlie Hebdo, c'est vous, c'est nous, Charlie Hebdo, siete voi e siamo noi. Quindi, malgrado la tensione, la commozione, c'è molta partecipazione nelle strade parigine. Malgrado la pioggia, tante persone sono scese in strada a manifestare solidarietà a Charlie Hebdo. Grazie a Chiara Zappalà per questo breve racconto davanti alla sede di Charlie Hebdo, e torniamo da Marco Mussanè. A questo punto, come sta reagendo la politica francese, come sta reagendo il governo francese, Marco? Ma direi che per il momento la reazione è molto dignitosa, molto come dire, compatta, una dimostrazione di grande unità da parte della classe politica. Il presidente Hollande ha trovato ieri sera le parole giuste parlando ai cittadini in televisione. Questa mattina ha appunto ricevuto revisioni con la Sarkozy, che per la prima volta rimetteva piede nella sede della Presidenza della Repubblica. I due uomini si sono parlati per circa tre quarti d'ora e al termine Sarkozy, che ora è il leader dell'opposizione, ha ribadito che ci sarà tutto l'appoggio necessario al governo da parte dell'opposizione, che non mancherà ovviamente il contributo di unità della comunità civilizzata per rispondere alla barbarie di questi attentati. Resta una incertezza a proposito della manifestazione di domenica prossima, e cioè se alla manifestazione parteciperà anche il Fronte Nazionale, cioè il partito di estrema destra di Marine Le Pen, o no. La Marine Le Pen ha detto di essere pronta a partecipare, non è per il momento stata invitata. Certo, sarebbe, qualora questo avvenisse, sarebbe la prima volta in cui il Fronte Nazionale partecipa a una manifestazione, diciamo, dei partiti storici, tradizionali, istituzionali francesi. Grazie intanto a Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Noi tra un attimo torneremo su tutto questo e nello specifico ci soffermeremo sui rischi per l'Italia. È stato alzato il livello d'allerta, si preparano nuovi provvedimenti, si ragiona sui cosiddetti foreign fighters, ma intanto andiamo sulle altre notizie, a partire da una di questa mattina, anzi sono tutte notizie di questa mattina, ma la più recente è quella che riguarda un crollo avvenuto in una scuola materna nel milanese. Ci sarebbe uno shock termico dietro il crollo di parte dell'intonaco di un'aula della scuola materna statale da Feltre di Via Leopardi a Sesto San Giovanni. L'episodio è avvenuto questa mattina, poco dopo le 10. In una delle aule una parte di intonaco del soffitto è venuta giù, ferendo 6 bambini. 5 sono stati medicati sul posto, una sesta bambina di 3 anni è stata invece ricoverata al Niguarda in codice giallo, ma non è assolutamente in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La scuola, che ospita normalmente 120 bambini dai 2 a 5 anni, rimarrà chiusa oggi e domani. Secondo le prime analisi dei vigili del fuoco, si sarebbe trattato appunto di un problema imprevedibile, probabilmente uno sbalzo termico che può accadere anche senza preavviso. L'edificio, infatti, di proprietà del comune di Sesto, sembra non presentare pericoli strutturali, ma per precauzione verrà ispezionato a fondo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come si diceva, nonostante le notizie tragiche di Parigi, il mondo non si ferma e questa mattina la Guardia di Finanza ha effettuato una maxi operazione a Roma e ancora casi di corruzione e concussione. 28 ordinanze di misure cautelari, di cui 22 arresti nei confronti di 10 funzionari pubblici, 13 imprenditori e 5 liberi professionisti, oltre 40 perquisizioni. Questi i numeri della nuova vasta operazione anticorruzione a Roma. Vitruvio l'hanno battezzata Finanzieri del Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza. I reati contestati sono appunto corruzione e concussione. Gli episodi hanno coinvolto funzionari in servizio presso l'Ispettorato Edilizio del 14° municipio di Roma. Funzionari che, incaricati di controllare le pratiche edilizie, hanno omesso di rilevare gli abusi riscontrati. In pratica erano loro stessi a suggerire quali modifiche apportare ai lavori per far ottenere al costruttore il massimo illecito vantaggio economico. Tutto questo in cambio di sostanziose mazzette. Un'indagine avviata qualche mese fa attraverso pedinamenti, intercettazioni, rilevamenti contabili, e quel che è emerso, dicono le Fiamme Gialle, è un vasto sistema di malaffare. Mentre le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E c'è anche una vicenda di traffico di rifiuti speciali, avvisi di garanzia tra Chieti e Pescara, indagato anche qua per corruzione il sindaco di Chieti. 18 avvisi di garanzia, 5 misure cautelari, tra cui 4 arresti domiciliari, sequestri per l'equivalente di 3 milioni di euro e 400.000 metri cubi di rifiuti. Sono i numeri della maxi operazione del Corpo Forestale dello Stato tra Chieti e Pescara, coordinata dalla DDA dell'Aquila. Traffico illecito di rifiuti speciali e discarica abusiva, i reati contestati. In un fascicolo stralcio dell'inchiesta risulta indagato anche il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Da 5 anni alla guida della città, nella giunta di centrodestra, il sindaco è accusato di corruzione in relazione al progetto di sviluppo del grande centro commerciale di Chieti Scalo, il cosiddetto Megalo 3. Secondo una prima ricostruzione, nell'area golenale del progetto sarebbero stati sversati oltre 93.000 metri cubi scavati nel vecchio cantiere IKEA di San Giovanni Teatino. Le gravi modifiche del livello dell'area di esondazione del fiume Pescara erano state oggetto nei mesi scorsi di numerosi esposti delle associazioni ambientaliste. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere questa prima parte di Effetto Giorno, poi, come si diceva, torneremo a parlare degli attacchi di Parigi, soprattutto con tutti gli aggiornamenti e poi con i riflessi italiani di tutta questa vicenda, tra cui l'innalzamento del livello di sicurezza, i rischi per il nostro paese. Ci occupiamo di musei, perché questa mattina il ministro Franceschini ha presentato il bando per scegliere i direttori di quelli statali, di quelli principali. Valeria De Rosa è andata alla conferenza stampa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. Allora, prima di tutto, questa è stata l'occasione per Franceschini per fare il punto sui 4.000 musei italiani e ribadire che quest'anno è stato un anno di grande successo in particolare per la prima domenica del mese, domenica gratuita per gli ingressi. E poi, come dicevi giustamente, oggi il nodo principale era la presentazione del bando per la selezione dei direttori di 20 musei italiani, che sono i principali, ma ce ne sono anche alcuni che non sono così grandi, ma sono stati ritenuti importanti anche per le collezioni che hanno al loro interno. È un bando di selezione internazionale che si basa sul curriculum e non sull'anzianità, e dunque questi 20 musei avranno autonomia gestionale e amministrativa. Il direttore potrà gestire il personale, che comunque resta personale pubblico. In generale, con la riforma del Ministero si attua la distinzione tra i musei, che faranno capo ai poli museali regionali e non più alle sovrintendenze, che si occuperanno dei siti come Pompei, per intenderci. Altro meccanismo che è cambiato in questo anno: prima i proventi dei musei andavano tutti al Ministero delle Finanze, dunque un museo poteva staccare 5-50.000 biglietti, non cambiava assolutamente nulla. Dal secondo trimestre del 2014 invece i proventi vanno direttamente ai musei, che comunque per sopravvivere hanno bisogno di un principio di solidarietà, perché altrimenti non sopravviverebbero. L'ultima notazione: il ministro è tornato sul caso di Pompei, chiusa il 1 gennaio. Il ministro ha detto che questa è stata una scelta in base anche ai dati, ai numeri degli anni precedenti, e che comunque oltre a Pompei erano chiusi tutti gli altri musei statali. Per il momento è tutto. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Sarebbero stati localizzati a nord di Parigi, ma starebbero tornando in città i due sospetti terroristi che hanno colpito ieri. Ci sono decine di posti di blocco in città. Qualcuno pensa alla possibilità di un attacco suicida. Sale intanto la tensione: nel giro di poche ore 3 attacchi contro luoghi di culto musulmani in Francia e 3 bombe contro la moschea di Mans, nessun ferito. Si alza anche il livello di sicurezza in Italia, è possibile escludere attentati anche da noi, dice il ministro Alfano. Ne parliamo tra un attimo. Intanto le altre notizie: è crollato l'intonaco, una parte della soletta dal soffitto di una scuola elementare nel milanese, ci sono 6 bambini feriti, per fortuna lievemente. E 22 arresti e 40 perquisizioni a Roma per corruzione e concussione, sono coinvolti funzionari delle ASL, imprenditori e professionisti. Veniamo dunque ai riflessi italiani della vicenda di Parigi, a partire dall'innalzamento del livello di allerta, passando per i prossimi provvedimenti che il Consiglio dei Ministri vuole prendere. Sentiamo. In Italia al momento non risultano segnali specifici di attentati imminenti, ma anche nel nostro paese, dopo i fatti di Parigi, l'allerta resta massima. I controlli sono stati rafforzati attorno agli obiettivi sensibili, mentre intelligence e forze dell'ordine continuano a monitorare con attenzione gli ambienti più radicali legati all'estremismo islamico. A preoccupare anche da noi sono azioni da parte dei cosiddetti foreign fighters, miliziani jihadisti rientrati dopo aver combattuto in Siria o in Iraq. In Italia ne sono stati censiti 50 43, conosciamo la loro identità e sappiamo dove si trovano, ha fatto sapere stamattina il ministro dell'Interno Alfano, che annuncia una serie di interventi legislativi proprio per contrastare il fenomeno dei foreign fighters, innanzitutto introducendo la possibilità di punire penalmente anche i combattenti e non soltanto i reclutatori, come previsto oggi dal nostro ordinamento. Si punta poi ad estendere le misure di prevenzione adottate per i mafiosi anche ai soggetti ritenuti a rischio radicalizzazione, che potrebbero essere allontanati dall'Italia o privati del passaporto. Allo studio ci sono poi interventi per contrastare il reclutamento e la diffusione di messaggi radicali sul web, tutte misure che verranno discusse a breve dal Consiglio dei Ministri, ha fatto sapere Alfano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti voi. Prima di tutto ti chiederei, al di là insomma di quello che possiamo raccontare sui fatti avvenuti 24 ore fa, un commento su, da quel che sei riuscito a vedere, da quel che sei riuscito a capire, su come la Francia ha gestito tutta questa vicenda anche dal punto di vista dell'intelligence. In queste ore noi stiamo assistendo ad una scena che se non avessimo ancora quel dramma negli occhi sarebbe surreale, perché abbiamo sentito il racconto di questi terroristi, sospetti terroristi, che hanno preso la loro Clio, sono andati a nord di Parigi, adesso starebbero tornando a Parigi in una città blindata. C'è chiaramente un po' di confusione, Alberto, mi sembra di intuire. C'è una confusione e c'è anche, come dire, la consapevolezza che in questa rete di sicurezza e di intelligence francese ci sono state delle larghe maglie, per non dire dei buchi, perché i due fuggitivi, Sherif e Sadiq Qureshi, erano ben conosciuti da molti anni alla polizia. Addirittura c'è un video in cui Sherif viene intervistato nel 2004, nel 2005 viene arrestato per la prima volta e nel 2008 per una seconda volta, quando viene catturato nell'ambito di un'inchiesta su una rete jihadista che mandava combattenti dal centro di Parigi del 19° arrondissement fino all'Iraq. Erano i tempi appunto dell'occupazione americana, quindi erano personaggi purtroppo ben conosciuti e a quanto pare hanno fatto anche il viaggio in Siria, come tanti jihadisti europei, circa 3.000, 700-800 almeno sono francesi, che si sono recati da quelle parti. Insomma, erano personaggi conosciuti che facevano parte di una rete che era già stata individuata e che probabilmente sono riusciti a sfuggire ancora una volta. Sono della sorta di soldati della Jihad, soldati della Guerra Santa, che dai campi di battaglia del Medio Oriente l'hanno reesportata verso l'Europa, soldati particolari perché ovviamente sono degli assassini. Alberto, vorrei chiederti una tua riflessione su questo, ed è quello un'altra delle cose sulle quali si sta riflettendo molto. Che cosa rappresenta e che cosa l'attentato di ieri dal punto di vista dei rapporti tra il cosiddetto mondo islamico e il cosiddetto mondo occidentale, visto anche che le notizie di cronaca ci raccontano che nelle ultime ore proprio in Francia ci sono stati tre assalti contro luoghi di culto musulmani, in particolare tre granate lanciate contro una moschea a Mans. Beh, qui bisogna farsi proprio, come dire, un esame di coscienza anche geopolitica da un certo punto di vista, passatemi il termine, cioè come dicevo prima, questo jihadismo europeo si alimenta dai campi di battaglia del Medio Oriente, dall'Iraq alla Siria, alla Libia, allo Yemen, e quindi che cosa ci porta a considerare? Ci porta a considerare due cose. La prima, siamo in una certa situazione in guerra, non nascondiamocelo, perché c'è una coalizione internazionale guidata dagli americani a cui anche partecipano i paesi europei, tra cui Francia e pure l'Italia, per combattere questo califfato. Questo califfato viene combattuto in maniera ancora poco efficace, perché vediamo che è tuttora in piedi. Non solo, ma quei confini siriani e iracheni sono confinanti, appunto, sono frontiere che sono attraversate da jihadisti e combattenti di tutte le risme, e quindi ci serve anche una collaborazione tra il mondo occidentale e il mondo musulmano per impedire che questo avvenga. Dalla Turchia sono passati, si è stimato, almeno 20 o 30 mila combattenti, ma tutti lo sapevamo, ne abbiamo scritto nei nostri reportage, li abbiamo fotografati. Insomma, c'è stato anche da parte del mondo occidentale un certo lassismo e complicità attenzione, perché qual era l'obiettivo? L'obiettivo era buttare giù Bashar Assad, e quindi si è tentato di farlo in tutti i modi, anche strumentalizzando questi gruppi radicali islamici che potevano servire allo scopo. Grazie, grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, come sempre, anche per la sua lucidità. Noi adesso ci riascoltiamo il commento che è andato in onda questa mattina anche nei nostri giornali radio, e del nostro Gianluca Nicoletti, che ci ricorda come... una delle grandi conquiste della civiltà è proprio il diritto alla leggerezza, che è quello che è stato colpito ieri. È probabile che per qualcuno ancora possa resistere l'idea che in fondo ci siano persone e principi che la satira non debba permettersi di toccare. È già sintomo di pesantezza di pensiero immaginarlo a priori, ma ancor più è pericolosissimo continuare a sostenerlo ora, dopo il massacro parigino che ha preso di mira un caposaldo della dissacrazione satirica. Oggi dovremo tutti portare una matita nel taschino per ricordarci che hanno ucciso dei vignettisti, dei disegnatori, dei fumettisti, persone che usavano la matita per ricordarci che esiste sempre un aspetto ridicolo in ogni manifestazione umana. Guai se fosse proibito sorridere, guai se lo sberleffo fosse considerato un reato da pagare con la vita. Si immagini se qualcuno pensasse di sparare a Forattini, a Varo, a Vincino, a Mannelli, a Staino, che comunque ogni giorno irridono con la loro matita chi è potente, chi è celebre, sia esso un premier, un presidente della Repubblica o persino un papa. Non si tiri fuori proprio in questo momento così grave per la libertà di espressione che Charlie Hebdo e i suoi avessero superato i limiti della decenza, che fossero volgari, che avessero offeso i sentimenti di questo o di quell'altro. La massima conquista della nostra civiltà è proprio il diritto alla leggerezza, la leggerezza di ammettere che a qualcuno vada di deridere anche ciò che altri reputano importante. La leggerezza di essere così sereni del valore dei propri principi da saper gestire anche uno sberleffo, senza bisogno di affrontare con un Kalashnikov chi usa soltanto una matita. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. C'è ancora grande incertezza in questi minuti sulla ricerca dei terroristi che hanno colpito ieri a Parigi la sede del settimanale satirico francese Charlie Hebdo, uccidendo 12 persone. Sarebbero stati localizzati a nord della città, ma starebbero tornando verso la capitale. Forse qualcuno pensa ad un attacco suicida, ci sono decine di posti di blocco appunto nella capitale francese. Sarà intanto la tensione, nel giro di poche ore tre attacchi contro luoghi di culto musulmani in Francia. E questa sera alle 18 manifestazione a Parigi in Place de la République. Si alza il livello di sicurezza anche in Italia, è impossibile escludere attentati anche da noi, dice il ministro Alfano, anche se non ci sono minacce specifiche. Nel prossimo Consiglio dei Ministri nuove norme contro i cosiddetti foreign fighters, italiani che sono andati a combattere con ISIS, che sono comunque poco più di una cinquantina. È crollato l'intonaco e una parte della soletta e il soffitto in una scuola elementare nel milanese, ci sono 6 bambini feriti, per fortuna lievemente. 22 arresti, 40 perquisizioni a Roma per corruzione e concussione. Sono coinvolti nell'inchiesta funzionari delle ASL, imprenditori e professionisti. Alla borsa. Borse in diretta. Ed è una giornata veramente eccellente oggi quella sui mercati. Un più 2,39% il FTSE MIB, un più 2,25% il FTSE All Share, bene anche le altre piazze finanziarie europee, Parigi più 2,33%, Francoforte più 1,78%, Londra più 1,68%, Ceo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno a tutti. A cosa dobbiamo i rialzi di oggi? Ma principalmente a Wall Street, che ieri ha chiuso molto bene, e oggi i futures di Wall Street, che sostanzialmente sono un indicatore anticipatore di quello che sarà appunto l'apertura del mercato americano, segnano un rialzo di un ulteriore punto percentuale, di cui diciamo l'entusiasmo tra virgolette dei listini che stanno guadagnando parecchio terreno. Ricordiamo comunque che veniamo da diverse sedute di ribassi ed è anche per così dire naturale che diciamo i corsi riprendano la strada del rialzo. Tutto bene anche dal lato dei bancari, la Popolare di Milano guadagna il 3,8, l'Emilia Romagna il 3,6, Monte dei Paschi il 3,5, il titolo migliore Autogrill che guadagna il 4,6, Campari il 4,42%, c'è un solo titolo negativo, CEO, sul listino principale che è IUX, c'è un motivo particolare? Sì, diciamo che non va in scia l'USO UX, che anche oggi è in deciso rialzo, al sesto calo consecutivo UX e dall'inizio di questo trend ribassista del 30 dicembre, che è partito il 30 dicembre scorso, ha perso il 13%, c'è un diffuso pessimismo anche in relazione a alcuni dati di alcuni concorrenti di UX riguardo le vendite dei retailer online dell'USO, e UX continua a pagare questo fenomeno. Sul resto del listino da segnalare soprattutto il rialzo dei titoli legati al dollaro, in particolare Autogrill e Campari, stiamo discutendo di tutte aziende che realizzano buona parte del fatturato negli Stati Uniti, e ovviamente il rincaro del dollaro nei confronti dell'euro non può che favorirle. Ultima segnalazione per quanto riguarda il prezzo del greggio, un più 0,49% per quanto riguarda il Brent, che è sopra i $51 al barile, ed è appena sotto i 50, 49,36 il WTI, è sotto i 49, 48,91 il WTI, quello quotato a New York. Grazie a Ceo Condi, la Radio Corriere Sole 24 Ore, e buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Torna da noi Gianluca Ansalone, docente di geopolitica e strategia alla SIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, esperto di intelligence. Ansalone, benvenuto. Bentornato. Vorrei tornare innanzitutto, un po' come abbiamo fatto poco fa anche con Alberto Negri, a parlare con lei, a dare un giudizio su quello che è successo ieri, anche proprio da un punto di vista della gestione da parte dei servizi francesi. Qui siamo nel campo della cosiddetta perfetta asimmetria, nel senso che si scontrano due modalità che evidentemente lavorano su piani completamente diversi. Da un lato abbiamo un attentato spettacolare, in grande stile, perfettamente organizzato e pianificato, salvo alcuni errori che la stampa e gli analisti in queste ore stanno evidenziando, ma che sono errori del tutto normali nel momento in cui due persone ordinarie, cresciute in un paese, addestratesi, che hanno combattuto in Medio Oriente, rientrano in patria e decidono di organizzare un'azione così importante e così spettacolare. Dall'altro lato abbiamo i servizi intelligence che evidentemente in questo caso specifico sono vittime di un gigantesco errore, cioè l'errore di monitorare soltanto i movimenti, le attività di alcune persone senza verificare lo stato di carattere generale, cioè qui un piccolo gruppo addirittura di carattere familiare riesce a organizzare un attentato del genere, evidentemente con degli appoggi logistici e un supporto non soltanto morale ma anche organizzativo decisamente più ampio. Quindi lei dice che una sorta di rete ci deve essere stata? Io non avrei dubbi su questo, l'attacco può essere per carità condotto anche con mezzi tutto sommato organizzati in maniera veloce, in maniera rapida, però non si riesce a portare a segno un attentato così importante senza un lungo periodo di preparazione, un addestramento che è avvenuto senz'altro sul campo in Medio Oriente per un lungo periodo, ma anche una rete di appoggi sul territorio piuttosto importante. Questo anche per uscire dalla retorica dei lupi solitari, Ansalone. Dobbiamo distinguere alcuni episodi che purtroppo abbiamo dovuto commentare in questi ultimi mesi. Ci sono episodi più legati al fenomeno dei lupi solitari, li abbiamo commentati assieme, ad esempio in Australia, per alcuni versi anche l'attacco al Parlamento di Ottawa in Canada. Qui siamo su un piano completamente diverso, siamo di fronte al primo esempio clamoroso del fenomeno del cosiddetto reducismo. I combattenti stranieri che si sono radicalizzati e poi addestrati al combattimento, in questo caso al confine tra la Siria e l'Iraq, che poi rientrati in patria godono di libertà di movimento e di pianificazione di azioni così spettacolari. Siamo quindi di fronte purtroppo alla materializzazione di un pericolo che molti analisti e anche molti governi avevano già paventato. Le chiederei, secondo lei, quali sono i rischi per l'Italia in questo ambito, cioè la posizione più defilata, per così dire, dal lato della lotta a ISIS ci mette, aperte virgolette, un po' più al sicuro oppure no? No, assolutamente. assolutamente no dal mio punto di vista. Qui dobbiamo distinguere un elemento di carattere numerico innanzitutto. L'Italia ha una popolazione musulmana e di immigrazione decisamente inferiore rispetto ai altri paesi europei. Sì, giusto per dare i numeri, così li diamo agli ascoltatori, sono circa 6 milioni o poco più di 6 milioni le persone di religione musulmana in Francia, circa 1.200.000 in Italia. Prego Anzalone, prosegua. Bene, quindi questo è il primo dato importante e rilevante. Il secondo riguarda il numero dei combattenti attivi in questo momento nelle file dell'ISIS, quindi tra Siria e Iraq. Si conta che in generale siano circa 10.500, la provenienza è molto diversa. Pensi che il primo paese per contributo di combattenti in quell'area è la Russia, con oltre 800 combattenti. Al secondo posto c'è la Francia, con 700 circa militanti radicalizzati, cittadini francesi che hanno combattuto, stanno combattendo in questo momento in Medio Oriente. Per l'Italia, come ha confermato il ministro Alfano, siamo a poco più di 50 unità. Questo senz'altro riduce il rischio sotto il profilo meramente statistico, ma per quanto riguarda l'esposizione del nostro paese, sia in termini simbolici che di sensibilità di possibili obiettivi, siamo purtroppo tanto esposti quanto gli altri governi e gli altri paesi europei. Esposti ad un tipo di terrorismo, come ha dimostrato il caso francese, estremamente difficile da controllare. Io direi praticamente impossibile da controllare. Questo lo ha detto anche il coordinatore europeo dell'antiterrorismo qualche mese fa, che ha riconosciuto che un attacco sul suolo europeo, e forse si riferiva ad un attacco come quello che abbiamo testimoniato a Parigi qualche ora fa, è praticamente inevitabile, solo una questione di tempo. Ce ne saranno probabilmente degli altri. È impossibile verificare la sicurezza di tutti i cittadini italiani e europei, di tutti i siti sensibili in Italia e in Europa. La coperta è necessariamente corta. Detto questo, oggi abbiamo gli strumenti in termini di intelligence umana, tecnologica, di comunicazioni per ridurre il più possibile questo rischio, che è un rischio col quale purtroppo dobbiamo sempre più abituarci a convivere. Resti un attimo con noi Anzalone, e io saluto Felice Casson, ex magistrato del Partito Democratico, adesso è un parlamentare, un senatore ed è un membro del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti. Vorrei sapere Casson, la domanda è molto secca, se siamo a rischio, se il nostro paese è a rischio oppure no. Devo dire che come Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica abbiamo monitorato queste situazioni da mesi, nel senso che sia all'interno del nostro territorio che all'estero noi abbiamo avuto contatti con gli organismi corrispondenti dei servizi segreti e dei comitati parlamentari per tenere sott'occhio questa situazione. Le segnalazioni che sono arrivate sono peraltro note ai nostri apparati di sicurezza, le persone sono controllate e verificate, ovviamente un rischio non può essere escluso, soprattutto quando si tratta di persone singole o di piccolissimi gruppetti che sono difficilmente controllabili, però le persone che sono andate a fare attività all'esterno del nostro territorio in collegamento con gruppi terroristi sono rientrate, sono note e sono verificate. Quindi strettamente monitorate. Le vorrei chiedere, Casson, se in questi contatti con i vostri colleghi stranieri, da parte francese, vi fosse arrivata la segnalazione di qualche possibile rischio di un grande attentato di questo tipo proprio in Francia, proprio a Parigi, o se i timori si addensassero proprio sulla Francia, o ci fosse un livello di allerta più generale che riguarda tutto il territorio europeo? No, segnali specifici innanzitutto sull'Italia non erano arrivati, erano arrivati segnali specifici che riguardavano altri stati europei, compresa la Francia, ma non solo la Francia, e per questo l'attenzione era comunque alta. E peraltro è ovvio che in questa escalation che c'è di contatti e di rapporti con i gruppi terroristici più pericolosi, ma anche con lo Stato Islamico, si crea una crescita di tensioni e da parte nostra di accortezze per evitare che si concretizzino quelle minacce generiche che sono state lanciate in più occasioni. Questo il punto per quanto riguarda il lato parlamentare. Allora io la ringrazio, intanto Felice Casson per averci dedicato un po' di tempo. Come avrete sentito, l'audio era un po' disturbato. Questo perché? Perché Casson è in Senato, sta votando, sta facendo il suo mestiere, lo ringraziamo comunque, sta per votare, quindi lo liberiamo perché deve avere il tempo di votare naturalmente. Lo ringraziamo per questi pochi minuti che ci ha dedicato, per averci dato anche qualche indicazione interessante. Tornerei da Gianluca Anzalone, lo ricordo, docente di geopolitica e strategia alla SIO e la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, che avevamo lasciato un attimo in sospeso proprio per sentire che cosa aveva da dirci Casson. Anzalone, io tornerei sul tema dell'Italia. Come ci diceva Casson, in effetti i cosiddetti foreign fighters italiani, quelli che sono rientrati, che sono già di loro pochi, sono ben monitorati. La nostra struttura di intelligence, abbiamo parlato già altre volte, sembra ben pronta ad affrontare rischi di questo genere comunque. Sì, questo senz'altro, c'è però un altro aspetto da evidenziare. L'Italia non è soltanto un luogo di reclutamento di possibili volontari che vanno a combattere al fronte. L'Italia è anche storicamente una piattaforma logistica per l'indottrinamento e il cosiddetto fundraising di questo tipo di azioni e dei gruppi terroristici. Non c'è nessuna azione immaginabile possibile senza una forma di aiuto anche sostanzioso in termini finanziari. Ora, l'Italia, anche per la sua posizione geografica, è una piattaforma ideale per lo spostamento di terroristi, per il loro reclutamento e indottrinamento e anche per il loro finanziamento. Il senatore Casson coglieva un punto importante, quello del coordinamento. Noi siamo di fronte ad una minaccia, è vero molto rarefatta, è vero estremamente imprevedibile, ma che oggi si è data anche una struttura addirittura statuale in Medio Oriente, quindi questo vuol dire che c'è una sovrastruttura organizzativa molto importante. Tanto forte quindi è il coordinamento tra singole persone o piccoli gruppi organizzati che vogliono compiere attentati, tanto forte e simmetrica deve essere la risposta da parte delle organizzazioni dello Stato e dell'intelligence. Il coordinamento tra governi, il coordinamento tra agenzie di sicurezza è l'unico modo per ridurre il rischio di questo tipo di attentati. Grazie a Gianluca Anzalone, docente di geopolitica e strategia alla SIO e la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, ancora qualche aggiornamento e un breve riassunto di quello che sta succedendo in queste ore. Da quel che sappiamo, i due terroristi sospettati, almeno i sospetti terroristi, quelli che avrebbero compiuto l'attacco di ieri contro la redazione di Charlie Hebdo, settimanale satirico francese, uccidendo 12 persone, sarebbero stati localizzati a nord di Parigi, ma sarebbero in rientro verso la città, che in questo momento è effettivamente blindata con decine di posti di blocco, con a bordo di una Clio bianca. C'è qualcuno che sospetta, ma naturalmente sono solamente indiscrezioni, informazioni frammentarie, che stiano pensando ad un attacco suicida. Nel frattempo si rivedono le misure di sicurezza anche in altri luoghi del pianeta, come la Gran Bretagna, dove è stata aumentata la sicurezza nei porti dopo appunto la strage, e dove anche il quotidiano Guardian ha rivisto il sistema di sicurezza delle redazioni. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Come sempre, a quest'ora è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Breaking news from Paris. At least 12 people are confirmed dead after masked gunmen stormed a French newspaper office. L'America è sotto shock, avete sentito uno degli annunci di ieri dopo l'attacco a Parigi, sotto shock, dicevo, come tutti noi, come tutta l'Europa, come tutto il resto del mondo civile per l'attacco a Parigi contro il magazine satirico Charlie Hebdo. I 12 morti, le immagini del poliziotto freddato per strada hanno tenuto col fiato sospeso l'opinione pubblica. Per gli americani si sa che una cosa di questo genere potrebbe accadere in una loro città, in un loro aeroporto, in una metropolitana, in una scuola, oltre che nei giornali e nelle istituzioni. Per tutti ha parlato il presidente Barack Obama. The fact that this was an attack on journalists